Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di ferrovie, non solo, non tanto dello scontro tra le Ferrovie dello Stato e il consorzio NTV Italia, quindi Montezemolo e Della Valle. Ieri sera c'è stato l'incontro con il ministro Matteoli e di questo, insomma, cioè, continuano a esserci botte e risposta tra i vertici delle ferrovie e quello che sarà dal 2011 prossimo concorrente delle Ferrovie dello Stato sull'alta velocità. Ma dicevo, ce ne occuperemo anche per quello che è un settore del traffico ferroviario spesso dimenticato, ed è il trasporto merci. Anche qui si chiede maggiore liberalizzazioni, maggiore concorrenza e soprattutto in un paese che, come altre volte abbiamo ripetuto, usa i treni per trasportare le merci meno della metà della media europea, un terzo di quanto non avvenga in Germania e un quarto di quanto non avvenga in Francia, questo con ricadute anche sul traffico complessivo e sui costi complessivi. Di questo parleremo, perché il tema della liberalizzazione a noi sta sempre a cuore, che si tratti di telefonia, di gas o di ferrovie. Ancora sui temi, la vicenda del petrolio, fra poco vi accenneremo. Oggi su Sole 24 Ore l'ipotesi di un vertice straordinario dell'OPEC e di cali bruschi nei guadagni, nei profitti dei paesi che aderiscono all'OPEC, cioè i principali paesi produttori di petrolio. E ancora, sempre per quello che riguarda i temi, il rapporto di oggi commissionato da AXA alla GPF, e in sostanza cosa emerge? Emerge che la fiducia degli italiani cala ai minimi da 20 anni, ma soprattutto cala anche la fiducia verso il mondo assicurativo. Il rapporto era commissionato infatti dal gruppo assicurativo francese AXA. E ancora, questo fa in qualche modo il paio con quanto già rilevato dalla Confesercenti a fine settembre, su una fiducia che cala complessivamente verso le istituzioni. Dovrebbe tenere conto la politica in senso lato, invece che occuparsi di altro. I problemi sono la tenuta del bilancio familiare, la tenuta anche generazionale, i padri che temono di non riuscire a sostenere economicamente i figli o i genitori anziani. Questi temi principali della puntata. 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo con le notizie in breve, partendo come sempre dalla borsa. La borsa perde mezzo punto percentuale a Milano, come a Parigi, invariata invece Francoforte, Londra invariata, l'America meno 0,3%. Euro sempre forte, anche se sotto quota 1,39, siamo 1,38,37. Tra i titoli cala in modo particolare Eni, meno 2,5%, sotto i 16 euro per azione, timori di un calo degli utili, di un possibile, come si chiama in gergo, profit warning, ossia un annuncio che gli utili potrebbero essere più bassi rispetto alle attese. Nessun commento della società. Il titolo comunque è il peggiore in quelli a maggiore capitalizzazione. Segue il Banco Popolare, meno 2%, di nuovo sotto pressione. Autogrill meno 2,1%, Fondiaria, anch'essa oggi però realizzi dopo i forti rialzi dei giorni scorsi, Fondiaria meno 1,90%, Unicredito meno 1,17%, Enel meno 1%, come Prismian e la Popolare di Milano. Di nuovo forte Fiat, più 2,6%, Bulgari più 2,5%, Pirelli più 1,90%, Impregilo più 1,80%, Estimac Electronics più 1,60%, 1,5%, Parmalat, l'1,3%. Lo guadagna in questo momento Unipol, l'1,1% Intesa San Paolo, l'1% Mediolanum. Ancora per quello che riguarda i mercati, il prezzo del petrolio, visto che ne parleremo più avanti, è stabile, ma sempre sopra gli $80 al barile, $82 al barile. E ancora, ripeto, oggi su Sole 24 Ore viene anticipato un documento dell'OPEC che prevede per i paesi membri dell'organizzazione un calo, una perdita tra il 27 e il 44% del PIL da qui al 2050 a causa delle politiche di risparmio energetico e il contenimento dell'anidride carbonica avviate dai paesi industrializzati. Ancora il lavoro. Ah, una notizia carina prima di arrivare al lavoro. Google, il motore di ricerca più famoso al mondo, sta lavorando a un indice di inflazione da realizzarsi con i dati del web, ossia degli acquisti effettuati online. Chissà che non ci becchi più di altri indici ben più istituzionali sull'inflazione. Ancora il lavoro, preoccupazione da parte dell'OCSE, ci sono 45 milioni e mezzo di disoccupati nei paesi che aderiscono all'OCSE, 13 milioni in più dal 2008, 13 milioni in più dal 2008, significa un paese come l'Austria. Per fortuna in Italia l'OCSE fotografa un tasso di disoccupazione che è sceso leggermente all'8,5%, scusatemi, nei vari paesi OCSE. In Italia invece resta all'8,2%, pochissimo variato, comunque se vogliamo essere proprio precisi è un 0,3% in più rispetto all'agosto del 2009, è sceso dello 0,1% nei paesi OCSE, è leggermente aumentato in Italia, questo a dire però attenzione che per quanto non siamo messi peggio siamo ahimè assolutamente in linea con la media dei paesi. E mentre la Francia si è fermata contro la riforma delle pensioni, se ne sono occupati molto anche i nostri GR, nel pomeriggio hanno sfilato 244 cortei in altrettante città. Cosa contestano i francesi? Soprattutto l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 62 anni, della massima da 65 a 67. Devo dire che in realtà da noi si è riuscito a fare un'operazione sulle pensioni che riguarda soprattutto il mondo femminile, senza nessuna tensione sociale, anche un segno un po' di maturità dei vari soggetti sociali vista la crisi in atto. Buone notizie invece sul fronte dei debiti dei paesi a rischio. Grecia in primo luogo. Oggi la Grecia ha collocato 1,170 miliardi di euro di obbligazioni con una fortissima domanda, che è un buon segnale, vuol dire che c'è molta richiesta, che il mercato la vuole comprare, 4 volte superiore all'offerta e alla domanda per il debito greco oggi collocato sul mercato. E anche l'Italia oggi ha collocato 1,440 miliardi di BOT con scadenza il 14 ottobre del 2011, quindi BOT annuali. Buona la domanda, praticamente venivano, l'importo offerto era, scusatemi, l'importo era di 6,5 miliardi offerto, non di 1,4 miliardi. La domanda è stata di oltre il doppio, cioè stiamo parlando di 13 miliardi di euro. E poi un'ultima notizia, nel senso che è stata battuta qualche istante fa, come già anticipato la Commissione Europea a Bruxelles ha deciso di avviare un'indagine approfondita nei confronti dell'Italia che ha come oggetto il Vaticano. E cioè il fatto che l'Italia abbia concesso ai beni della Chiesa l'esenzione dall'ICI, ma anche l'ha concessa l'esenzione ad altre attività e entità non commerciali come le associazioni sportive. Insomma, la Commissione ritiene, lo ha spiegato lo stesso portavoce del Commissario europeo alla concorrenza Gioacchino Almunia, diceva la Commissione ritiene che gli immobili in questione potrebbero essere usati anche per attività commerciali, che tali esenzioni fiscali potrebbero pertanto distorcere la concorrenza. Quindi aperta un'inchiesta sull'aiuto che l'Italia ha fornito ai beni della Chiesa esentandoli dall'ICI. Allora, di altri temi parleremo più avanti, del fatto che l'Italia continui a calare nel rapporto, nelle pari opportunità tra donne e uomini, siamo scesi al 64esimo posto, ancora sulla fiducia degli italiani dicevamo. Vorrei adesso partire con il primo tema e mi riferisco non solo allo scontro Montezemolo-Ferrovie dello Stato, ma in generale al tentativo di arrivare a un sistema ferroviario più in concorrenza e più liberalizzato. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché se ieri, dopo l'incontro con il ministro dei trasporti Matteoli, il presidente di NTV Italia Montezemolo ha detto: siamo convinti che un governo liberale metterà i privati nella condizione di lavorare in un contesto di corretta concorrenza, ha comunque denunciato ostacoli illegittimi da parte del gruppo Ferrovie dello Stato e ha chiesto un arbitro che vigili sull'apertura della alla concorrenza del settore e poi anche la separazione tra la rete delle Ferrovie dello Stato e Trenitalia, cioè i vagoni che viaggiano su questa rete. Già aveva risposto il giorno prima Mauro Moretti dicendo: attenzione, di arbitri in Italia ce ne sono già abbastanza. E allora, diciamo, al di là delle battute tra o lo scambio di battute tra il numero uno delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti da un lato, Luca Cordone Montezemolo e Della Valle dall'altro, e quindi l'alta velocità e freccia rossa delle ferrovie e NTV che partirà nel prossimo anno, non c'è solo, diciamo, lo scontro tra il nuovo soggetto che entra sull'alta velocità e il vecchio monopolista come erano le Ferrovie dello Stato. In realtà il tema delle liberalizzazioni delle reti ferroviarie, che è l'ottavo allegato alle infrastrutture tra le altre cose, è un tema delicatissimo. Quando parliamo di reti parliamo sempre della stessa cosa, che si tratti di telefonia, di gas o di vagoni. E cioè il problema su cui intervengono le autorità a livello poi anche europeo, le autorità di controllo, in questo caso l'antitrust, è il seguente: se uno è proprietario della rete ed è proprietario però anche di quello che naviga sulla rete, di parte di quello che naviga sulla rete, non rischia di avvantaggiare se stesso, non c'è un conflitto di interessi, e questo vale sia che uno trasporti gas. Eni è l'autority per l'energia, l'autority per l'energia ha sempre chiesto che l'Eni si liberasse della rete, un conto è trasportare, un conto è avere la rete per il trasporto. Analoga polemica la vediamo nella telefonia, dove si è detto: attenzione, se tu hai la rete e sei anche un operatore di contenuti hai un vantaggio di fatto. Questo tema vorrei trasportarlo papale anche sulle ferrovie e al di là dell'alta velocità. Ecco perché abbiamo invitato in collegamento con noi il presidente di Fercargo, che è l'associazione che rappresenta le imprese ferroviarie private di trasporto merci operanti in Italia, quindi non alta velocità ma i merci. Dottor Giacomo Di Patrizi, buonasera. Buonasera. Lei rappresenta 1100 addetti, 1150 treni mossi a settimana, 11 le imprese associate di qualunque tipo, molte anche straniere, 250 milioni di euro il fatturato delle imprese associate, in un paese che ha cronicamente una media di trasporto di merce sul cargo ferroviario, quindi sui binari, bassissima. Siamo al 5% contro una media europea del 12-13%, se non ricordo male, però mi corregga lei se sbaglio. Allora, al di là della polemica Montezemolo-Moretti, a voi interessa veramente la liberalizzazione? Se sì, con quali vantaggi? Ma a noi interessa assolutamente la liberalizzazione. La polemica Moretti-Montezemolo è assolutamente l'ultimo atto di una situazione che lei spiegava in maniera chiarissima. Purtroppo, quando si fanno le liberalizzazioni e si mantiene il gestore della rete, lo stesso ruolo del gestore della rete insieme a quello del gestore delle attività che vengono svolte sulla rete, purtroppo spesso, quasi sempre, ci si trova a dover affrontare delle situazioni che purtroppo non aiutano la libera concorrenza. Noi siamo in questa condizione ormai da anni, il mercato del trasporto merci è stato quello che è stato liberalizzato per primi, quindi si parla ormai dei primi atti intorno al 2002. La liberalizzazione ha avuto compimento poi più tardi, quindi è dal 2006-2007 sono realmente nate le imprese ed oggi, diciamo, c'è il momento reale di attività e di inizio forte dell'attività di queste imprese. Ci troviamo a dover affrontare giornalmente, a scontrarci costantemente con delle situazioni che purtroppo limitano fortemente la nostra attività, limitano la nostra capacità di fare impresa, limitano la nostra capacità di operare sulla rete. La situazione fra Montezemolo e Moretti ha avuto questa grande risonanza perché ovviamente l'alta velocità impatta sui passeggeri, fa sicuramente e molta più audience di quanto facciamo noi, che abbiamo, diciamo, gestiamo dei poveri merci, ma non fa altro che, insomma, essere un po' la punta di un iceberg che purtroppo monta, cresce da diversi anni ormai. Allora, è vero che fa più notizia l'alta velocità che le merci, ed è un peccato. Perché dico che è un peccato? Perché da un lato, come ripeto anche i nostri ascoltatori, noi abbiamo un trasporto di merci su rotaia che è meno del 7% del totale. In Francia è il 14%, in Germania è il 15%, quindi siamo meno della metà. E con la rete autostradale congestionata che abbiamo, sarebbe importante fare il contrario. Il trasporto su gomma invece è al 90%, la media europea è al 76%. Ancora però, tra l'altro, un terzo del trasporto nelle merci è in quota dei privati. Però la cosa interessante, e lì vorrei un suo commento, è che negli ultimi due anni si assiste a una riduzione del trasporto ferroviario via merce, perché ha fatto meno 30% nel 2009, lì può aver giocato sicuramente la crisi, ma 2010 un altro meno 8%, praticamente da 68 milioni di treni per chilometro all'anno si è passati a 42 milioni di treni. Ma questo è dovuto anche all'assenza delle liberalizzazioni oppure no? Sicuramente sì, noi abbiamo beneficiato di diversi influssi, beneficiato, insomma, siamo stati impattati da diversi influssi negativi. Lei ha dato dei dati che sono certamente quelli veri, e sono i dati che esplicano in maniera chiarissima qual è la situazione. Noi siamo già partiti con un sistema ferroviario che purtroppo era molto ridotto rispetto agli altri paesi europei da sempre, questo frutto di diverse motivazioni, ma soprattutto, diciamo, dovuto al fatto che in Italia lo trasporto è molto forte, quindi per anni, insomma, il gruppo FS sicuramente dell'Italia non eccedeva per qualità del servizio e per capacità di rispondere alle esigenze dei clienti, e questo è quello che ne è venuto fuori. Purtroppo negli ultimi anni la situazione, invece di migliorare, perché poi la necessità di sviluppare il ferroviario esiste anche in funzione di degli obiettivi che ci sono dal punto di vista di emissioni di CO2, dalla necessità, come lei diceva, di decongestionare il trasporto stradale, che ormai, come tutti vedono giornalmente, è arrivato, certo, a dei livelli di guardia. Quindi bisognava cambiare la rotta. Purtroppo è avvenuto esattamente il contrario. C'è stata una riduzione dell'attività da parte del gruppo FS, nel senso che Trenitalia ha deciso di ridurre il suo perimetro d'azione, perché questo settore è un settore che è storicamente in grandissima perdita per loro. Però la cosa, diciamo, negativa è stata che, mentre riducevano il perimetro dal punto di vista dell'azienda impresa ferroviaria, contestualmente, essendo aziende dello stesso gruppo, RFI sta facendo la stessa cosa in maniera diciamo diretta rispetto all'attività che fa Trenitalia, ovvero Trenitalia riduce la sua attività, RFI chiude la rete. E questo è veramente Allora mi faccia capire, perché poi avremo sicuramente la replica delle Ferrovie dello Stato. Mauro Moretti è stato ospite nostro due settimane fa. Allora, è anche per far capire agli ascoltatori che chiedono al 349-238-6666 una cosa molto semplice. Perché voi dite che se ci fosse maggiore concorrenza più merci verrebbero trasportate via rotaia? Ho capito benissimo che lei dice: le ferrovie hanno ridotto i vagoni, i 42 milioni di treni, perché ci guadagnano poco, anzi ci perdono, ma al contempo hanno anche ridotto, diciamo, lo spazio dedicato sui binari al trasporto merci. Almeno ci avessero lasciato a noi lo spazio. Però vorrei capire, siccome il trasporto merci via rotaia non dipende solo dal numero di operatori, almeno così capisco io, perché siete così sicuri che aumenterebbe? Oggi l'offerta rispetto al passato è nettamente più ampia, nel senso che le imprese che stanno nascendo, crescendo, hanno la possibilità di offrire servizi al mercato che sono sicuramente maggiori, sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista probabilmente della qualità, perché la concorrenza ovviamente migliora la qualità, perché se si vuole poi portare a casa dei risultati bisogna essere anche efficienti ed efficaci, e questo creerebbe sicuramente un effetto importante nei confronti del traffico merci. Il problema qual è? Il problema è che, contestualmente a quello, all'azione che c'era, che le dicevo, che sta avvenendo nel mondo Trenitalia, che ovviamente è un'impresa, quindi decide autonomamente cosa fare ed è giusto che lo faccia in prima persona, RFI ha deciso di ridurre gli scali. Ora, senza gli scali è difficile fare trasporto ferroviario, cioè i terminal, i punti di aggregazione delle merci, di partenza del traffico e quindi dei treni e di arrivo sono fondamentali per essere vicino al mercato e poter servire bene le imprese. No, adesso mi scusi la mia somma ignoranza anche in questa materia, però quindi lei dice: attenzione, che se noi avessimo, se le Ferrovie dello Stato, visto che non vogliono investire in questo business del trasporto merci perché hanno ridotto i treni, ci perdono, Però, e questo purtroppo l'abbiamo visto anche in altre forme di, diciamo, di non separazione rete con, i conti, con quello che viaggia sulla rete, visto che però non vogliono mollare lo spazio, un po' l'accusa che Malpensa fece dall'Italia quando ridusse i voli da Malpensa ma non mise sul mercato gli slot, ecco, assomiglia un po' a questa vicenda. Malpensa diceva: beh, almeno dateci i vostri slot, visto che non volete volare più come prima, dateci gli slot che li vendiamo noi a qualcun altro. Voi dite: se le ferrovie ci dessero, liberalizzassero, e quindi anche non volessero investire, ma dessero a noi lo spazio, noi potremmo aumentare di fatto quello che è il trasporto merci su rotaia? Assolutamente. Le do un'indicazione ancora più precisa. Esiste, purtroppo qui c'è anche una, diciamo, la situazione è un po' più complicata, nel senso che poi dovrebbe esserci un'azione da parte del governo molto più diretta al coordinamento di tutte queste decisioni, che purtroppo non c'è. C'è una direttiva emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio dell'anno scorso, a cui noi come Fercargo abbiamo fatto opposizioni in molte sedi, tra cui la Presidenza della Repubblica. Oggi aspettiamo una decisione del Consiglio di Stato che dovrebbe esserci il 21 di ottobre. Questa direttiva dice semplicemente che i 230 circa scali che oggi in Italia sono aperti, pubblici, adibiti al traffico delle merci, quindi parliamo di 200 scali che esistono, non sono più utili, e quindi la direttiva dice di questi ne sono utili solo 70. Non si capisce bene su quale base sia, poi neanche il Consiglio di Stato riesce a saperlo perché non ottiene risposte da parte di chi dovrebbe darne in tema di come sono state prese le decisioni e come sono stati determinati 70 scali, perché sti 70 e non altri 25 piuttosto che 140, nessuno lo sa. Quindi tutti gli altri scali non sono, diciamo, utili alla collettività, però la cosa carina è che tutti questi scali possono essere da parte di RFI ceduti ad altre aziende del gruppo FS, compresa Trenitalia. Quindi questo cosa vuol dire? Che i 70 scali, da 230 quelli che sono, rimangono gli scali pubblici di pubblica utilità a disposizione di tutti. Gli altri 160 scali RFI può cederli tranquillamente a Trenitalia, la quale deciderà poi di prendersi direttamente in carico e di ovviamente non far entrare più nessuno dei privati. Quindi se oggi abbiamo degli scali su cui noi continuiamo ad andare, ed è questa la realtà dei fatti, stiamo già andando, domani quegli scali diventeranno privati, fra virgolette, quindi in Trenitalia, non saranno più accessibili. Ecco, adesso c'è il meteo e la pubblicità. Vorrei poi capire una cosa che non mi è chiara, mi scusi, perché, dottor Di Patrizi, perché se le FS non ci guadagnano e vogliono ridurre gli scali merci, vorrei capire perché secondo lei ostacolano l'ingresso di altri operatori. Cioè, voglio dire, se un business non è un business profittevole, tu lo liberi, lo molli, ma non dovresti avere interesse a ostacolare l'ingresso di altri operatori. Da risposta però dopo il metodo, la pubblicità, una nota invece da un lato sulla chiusura di borsa, di cui poi parleremo, meno 0,4% alla fine Milano, Eni, peggior titolo oggi in borsa con un calo che a questo punto è del 2,5%, e poi una risposta rapidissima a chi scrive al 349-238-6666. Attenzione, le Ferrovie dello Stato, nel caso specifico Moretti, sono state nostre ospiti decine di volte per illustrare l'alta velocità, gli investimenti, tutto, e li riavremo. Sentiamo anche gli altri operatori, no? Che siano riferibili a Montezemolo o come in questo caso non riferibili ai nuovi concorrenti, chi se ne frega. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso arriviamo a commentare la borsa, ripeto, meno 0,4%. Vorrei però concludere l'intervista al presidente di Fercargo, che l'associazione, lo ricordo, delle imprese private ferroviarie che trasportano merci. Il tema vedo che appassiona anche alcuni ascoltatori, hanno ragione, perché non si può sempre parlare di dati macroeconomici, di previsioni più o meno attendibili. Attenzione, questo è un paese che ha un problema enorme nel trasporto delle merci via ferrovia. Ma dicevo, abbiamo capito, insomma, quanto voi contestate il fatto che finché la rete ferroviaria sarà controllata da FS, quindi Rete Italia e Trenitalia, il conflitto di interesse è fortissimo, loro vi ostacolano l'ingresso, vogliono ridurre gli scali merci, voi dite dateli a noi che li sappiamo far gestire, che li sappiamo far rendere. Non ho capito perché secondo lei le FS dovrebbero impedirvi di entrare in un settore che, dove loro sono in perdita, in cui vogliono ridurre gli scali e hanno un calo di fatturato, cioè quale motivo avrebbero? Sì, la risposta è semplice, allora, non tutto il business del ferroviario merci in perdita, una parte in perdita, c'è dell'altro che non è assolutamente in perdita, quindi è molto più remunerativo. Quindi settori, filiere più specifiche tipo il siderurgico, tipo il chimico, sono sicuramente molto più interessanti e quindi possono essere mantenuti in piedi. In realtà poi, come dicevo prima, non è proprio un chiudere gli scali, è non dare a noi la disponibilità degli scali, quindi mantenere gli scali interessanti per loro, poter decidere di farci sopra in quelli non interessanti un centro commerciale, quindi portarli in qualche maniera a condizione di rendere molto più di quanto fanno oggi. Il tema è questo: RFI dice, io in alcuni scali rimetto troppo, quindi i miei costi su quegli scali sono talmente elevati che non mi posso permettere di tenerli in piedi. Benissimo, noi abbiamo detto, guardate, prima di fare questa direttiva, invece di cederli a Trenitalia, società del gruppo, valutate se noi siamo disponibili come Fercargo, come imprese private, a gestirli. Però se ho capito, voi dite, prima di chiudere questi scali, fateci gestire noi. Domanda. Allora, io prima facevo l'esempio del trasporto aereo. È chiaro che le low cost hanno avuto la possibilità di far decollare aeroporti minori che prima non avevano margine perché per il tipo di business, e quindi loro dicevano dateci a noi, o anzi venivano invitate ad andare in questi scali. Qui però parliamo di scali ferroviari merci. Le chiedo, in base a che cosa lei ritiene che riuscireste a fare meglio delle Ferrovie dello Stato e della decisione del governo? Cioè, se questi scali per loro non sono produttivi, perché dovrebbero diventarlo per voi? Trenitalia da sempre non è che abbia mai avuto una aggressività enorme nell'affrontare nuove possibilità di business, andarsi a prendere nuovi traffici, andare a cercare clienti. Pensi che quando io ho lavorato in Trenitalia qualche anno fa, quando arrivai non si chiamavano clienti, si chiamavano utenti. Quindi questo già dava un po' l'idea di come veniva approcciato il mercato e quant'altro. Adesso le nuove aziende è evidente che daranno un'accelerazione alla ricerca di clientela, hanno una capacità di avere costi molto più bassi di quelli che ha il gruppo FS, e questo è il tema principale. Quindi tutto questo può portare ad essere molto più efficienti ed efficaci ed andare a gestire sia nuovi traffici che strutture, infrastrutture, probabilmente in maniera molto più efficace e con costi molto più bassi. Noi siamo in una fase in cui siamo all'anno zero o uno dello sviluppo del mercato ferroviario in Italia. Allora, non possiamo oggi decidere quali scali ci serviranno per il futuro quando decidiamo su una base, su una situazione che è assolutamente ridotta rispetto a quelle che sono le potenzialità, ma anche quello che era qualche anno fa. Noi abbiamo perso quasi il 50% dei treni chilometro, parlo di tutto il sistema ferroviario, dal 2006 a oggi. Quindi oggi stiamo dando una conformazione alla rete sulla base di numeri che sono il 40% più bassi di 4 anni fa. Allora, senta, è evidente che sono irreali. Ho capito, facciamo così. Noi come programma da sempre, da quando ci fu la famosa lenzuolata di Bersani, siamo per le liberalizzazioni, non se ne abbiano alcuni ascoltatori. E quindi, visto che poi l'Italia è al 20° posto in Europa per liberalizzazione ferroviaria delle merci, il rapporto viene dal Freight Leaders Council, il rapporto IBM Global Business Service, quindi non lo diciamo noi. Noi siamo perché entrino il maggior numero di operatori, si facciano concorrenza, offrono tariffe diverse, servizi diversi. Non siamo per i monopoli. Speriamo che qualcuno vi ascolti. Se poi le Ferrovie dello Stato vogliono intervenire e contestare i suoi dati, massima disponibilità come sempre, però ci sembra assurdo ridurre gli scali merci, ridurre le reti su cui viaggiano le merci e nel frattempo dire no, tu non puoi entrare perché noi vogliamo mantenere una forma di semi-monopolio. Grazie al presidente di Fercargo Giacomo Di Patrizi. Grazie a voi. Sì, e in aggiunta, in un paese che utilizza il trasporto merci per meno della metà rispetto agli altri paesi europei, devo dire che ogni tanto anche noi non spariamo solo cavolate, perché ci scrivono molti ferrovieri o esperti del settore a giudicare dai messaggi da come si firmano qui al 349-238-6666, che dicono in effetti il problema c'è. Le FS stanno puntando poco sul trasporto merci, è mal gestito, ci vorrebbe maggiore concorrenza. Molti dicono tenete nazionali, mantenete a livello di controllo dello Stato la rete e i privati poi se la giochino sui contenuti. È l'ipotesi più forte, vale per la telefonia, vale per il gas, vale per la rete ferroviaria. Cioè, la rete l'abbiamo pagata noi, quello che poi è successo invece con le autostrade è un po' diverso. L'abbiamo pagata noi in questi decenni, i nostri padri, è giusto che resti un investimento dello Stato, e poi invece che gli operatori privati si facciano concorrenza anche spietata per quanto corretta e non mettendo in gioco la sicurezza, sui costi del trasporto, sui servizi offerti. Viva la concorrenza! Veniamo invece alla borsa, meno 0,4%, Eni male, meno 2,4%, e allora partiamo subito con un primo aggiornamento dalla borsa. Andrea Fontana, l'agenzia di stampa Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Eni e poi dopo il traffico gli altri titoli, meno 2,4 sotto i 16 euro per azione. Sì, una brutta Eni che ha pagato la brutta giornata del settore delle materie prime e dell'energia, che sono stati i settori che hanno portato in rosso i listini, ma che soprattutto ha pagato voci incontrollate di un taglio degli utili di fine anno, di un taglio delle previsioni degli utili, e queste voci, per quanto non confermate dalla società che non ha voluto commentare i rumors, hanno penalizzato il titolo per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte della seduta, finendo per farlo chiudere in perdita di 2,5% sotto i 16 euro. Sì, va detto che ha contribuito anche l'anticipazione, lo scoop, poi ne parleremo con l'autrice del Sole 24 Ore, sulle previsioni dei paesi OPEC di quanto, diciamo, caleranno i loro fatturati, i PIL di questi paesi, per via di un minor consumo di petrolio e gas nei prossimi anni. E poi invece casi anche molto singoli all'Eni. Detto ciò, negativa anche Autogrill, meno 2,1%, Fondiaria meno 2, Banco Popolare meno 2%, positiva Bulgari più 2,70, continuano le buone prospettive sul mercato del lusso, e Fiat più 2,70. Ora, senza offesa, io di Fiat vorrei capirci qualcosa, perché le immatricolazioni calano più del previsto o più della media, modelli nuovi non ce ne sono all'orizzonte, il titolo continua a salire. Dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms. Allora, dicevamo di Fiat. Andrea Fontana, siamo contenti che guadagni, ma perché? Beh, è stato innanzitutto oggi una brillante seduta per l'intero comparto automobilistico, che è stato il migliore d'Europa, con l'indice europeo che ha guadagnato il 2%, quindi Fiat si è mossa addirittura meglio di questo indice europeo. Secondo gli operatori, l'arrivo di Alfredo Altavilla alla carica di nuovo amministratore delegato dell'Iveco potrebbe aprire le porte a nuove operazioni straordinarie per la divisione camion del gruppo Fiat, tant'è vero che Altavilla già in passato aveva gestito negoziati per alleanze e acquisizioni del gruppo, e quindi il mercato ha, diciamo, fatto 2+2 e ha provato a scommettere su nuove operazioni straordinarie che riguardano la parte che convergerà in Fiat Industrial. Ancora per quello che riguarda i titoli, BPM continua a soffrire, anche oggi in calo, la Popolare di Milano, il secondo pagio titolo, terzo pagio titolo meno 2%, Fondiaria qualche realizzo meno 2 anch'esso, Autogrill immagino che pesi un po' il dollaro debole, Andrea, dimmi solo sì o no, meno 2%. Sì, ecco. E invece Bulgari, insomma, tutti in attesa dei dati del gruppo Louis Vuitton. Bulgari di nuovo oggi il titolo più forte, più 2,7, sopra i 7 euro per azione. Sì, nelle ultime sedute abbiamo visto una Bulgari molto, molto vivace, le indicazioni arrivate ieri dalla Svizzera su Richemont sono state positive per l'intero settore del lusso, e già ieri ne aveva beneficiato con un guadagno di quasi il 5%, l'attesa che tu ricordavi, i conti dei 9 mesi della francese Louis Vuitton, ha fatto il resto, e questo ha permesso a Bulgari di essere il miglior titolo del FTSE MIB oggi, nonostante indici sottotono in tutta Europa. Ancora per quello che riguarda i titoli, vediamo sui migliori, bene anche Pirelli, vogliamo commentare Pirelli più 2%, perché lì c'è Pirelli che va bene, invece Pirelli Real Estate che è arrivata a perdere oltre il 3%, il 3,70 per la precisione. Sì, per quanto riguarda Pirelli sicuramente c'è innanzitutto un'attesa a breve termine, cioè quella della vendita nel giro di qualche giorno ormai della divisione Broadband Solution, delle apparecchiature per la telefonia, le telecomunicazioni, che dovrebbero essere vendute per un prezzo tra i 40 e i 50 milioni nel giro di qualche giorno, quindi questa è una notizia positiva. Per quanto riguarda Pirelli Re, in invece ieri ed è stato annunciato oggi l'accordo parasociale di blocco tra i nuovi soci di Pirelli Re che controlleranno il 21% della società, quindi si è un po' spento l'appeal di chi scommetteva su un blitz di qualche immobiliarista su Pirelli Re, e invece lo scorporo che sarà operativo dal 26 di ottobre vedrà insomma, gli azionisti con un sindacato di blocco abbastanza forte. Miglior titolo ancora Lazio, pesa il campionato in senso positivo, più 16%, Unipol sul privilegio più 6,30%, Danone più 6%, la Roma Calcio più 6%, tra i peggiori invece PMS meno 4,40% e TAS meno 4,65%. Sul Banco Popolare volete sapere, beh, ne abbiamo parlato in questi giorni, il mercato sta ipotizzando un aumento di capitale o vendite per rafforzare il capitale. Negativo anche Unicredito meno 1,1%, Enel meno 1,1%, Prismia meno 1%, Talcementi meno 1%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 ore. Allora, le liberalizzazioni spietate come le vorreste voi porterebbero un'esplosione sociale. E altri scrivono questo. Attenzione, la liberalizzazione del commercio degli artigiani non è una cosa decisa per legge, è avvenuta, c'è la licenza. Si parla degli ex monopoli, non dei commercianti e degli artigiani. Si parla di telecom, di telecomunicazioni, di energia, di ferrovie, non del resto, degli ordini, avvocati, notai, commercialisti, giornalisti. Vabbè, parliamo di una buona notizia, chiudiamo la prima ora con una buona notizia, perché anche oggi l'OCSE ci ha ricordato che la disoccupazione è in aumento, 18 milioni di disoccupati in più, che alcuni mi hanno corretto, non sono 15 milioni in più, scusatemi, non sono l'equivalente dell'Austria, però c'è qualcuno che assume. 1.500 persone verranno assunte da BNL su indicazione del gruppo BNP Paribas, con una selezione abbastanza interessante. Oggi c'è già un'anticipazione nei nostri GR, perché abbiamo intervistato l'amministratore delegato e direttore generale di BNL Fabio Gallia per spiegarci come avviene questo processo di assunzione, oltre al fatto positivo che siano 1.500 assunti nei prossimi tre anni. Il percorso inizia innanzitutto con il lavoro del nostro ufficio selezione, che evidentemente lavora su quelle che sono le candidature che ci sono pervenute, essenzialmente sul canale digitale, perché ormai noi da giugno lavoriamo sul canale digitale e abbiamo ricevuto più di 20.000 curriculum in questi ultimi mesi. Vengono quindi lavorate e arriviamo quindi a una selezione di quei giovani che ci sembrano presentare le migliori caratteristiche. Dopodiché facciamo una prima selezione e ne invitiamo 40-50 in una filiale, quindi in un'agenzia bancaria, che permetterà loro di incontrare non solo i colleghi con i quali poi si troveranno a lavorare, ma soprattutto di vedere un po' più da vicino quella che è l'operatività bancaria. Allora, se ho ben capito, intanto rispondo a alcuni sms al 349-238-6666. Attenzione, dare notizie positive significa anche esaltare qualcosa che fa un gruppo, in questo caso un'impresa bancaria, visto che spesso parliamo, a maggior ragione nel mondo bancario, di esuberi anche importanti, e l'occupazione è il problema del 2010 e del 2011. Se anche lodiamo, come scrivono alcuni, il gruppo BNL perché assume 1.500 persone tramite e su indicazione del gruppo BNP Paribas, non ci vedo niente di strano, quindi chiudo la polemica. Mi dice invece cosa vuol dire essere assunti in giornata, cioè io un giorno che non finisce più questo per sti ragazzi, ma insomma loro arrivano, li portate in una filiale e poi quelli che si comportano meglio, che hanno migliori atteggiamenti e attitudini, vengono già assunti la sera? Assolutamente sì, nel senso che arriviamo evidentemente avendo già fatto una valutazione, come anticipavo poc'anzi, dopodiché partecipano singolarmente in gruppi di lavoro, sempre con ovviamente i colleghi delle risorse umane della nostra banca a contatto, che permette quindi di approfondire quelle che sono le valutazioni anche sulla base dell'esperienza che loro riescono a maturare. Per cui è una giornata intensa, ha fatto bene a ricordarla, una giornata molto piena, al termine della quale... Non oso pensare come cosa si possono fare tra di loro questi concorrenti, comunque. Ma guardi, insomma, abbiamo visto dei giovani straordinari. Ecco, 1.500 in quanti anni? Allora, 1.500 in un triennio, e contiamo di ripetere questo esercizio 4 volte all'anno. Così appunto l'amministratore delegato del gruppo BNL Fabio Gallia. Ci sembrava, per quanto un piccolo spazio, ma importante, insomma, visto che parliamo spesso di esuberi anche nel mondo bancario. Adesso il GR, poi lo scoop del Sole 24 Ore sul petrolio, sui paesi produttori dell'OPEC, e il rapporto del GPF sugli italiani, la fiducia, i timori delle famiglie sul patto generazionale. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di petrolio e poi della fiducia delle famiglie italiane. Una nota brevissima sul tema delle ferrovie e del trasporto merci. Faccio solo notare che chi ha parlato prima, cioè il presidente di Fercargo, Giacomo Di Patrizi, rappresenta le imprese private ferroviarie di trasporto merci in Italia. Nulla c'entra con Montezemolo e la polemica tra NTV Italia e le ferrovie dello Stato. E poi faccio notare che i vertici delle feste sono stati numerose volte nostri ospiti, mai Montezemolo o comunque i vertici di NTV Italia. Questo per chiudere le polemiche sempre un po' politiche. Parliamo dello scoop, dell'anticipazione oggi del Sole 24 Ore, l'allarme dei paesi OPEC. Allarme per loro, magari non per noi, perché temono i paesi produttori di petrolio un calo tra il 30% e il 40% del PIL nei prossimi 25 anni, cioè tra i 5.000 e i 10.000 miliardi di dollari, per la contrazione dei consumi, per le politiche ambientali. Sissi Bellomo ha avuto modo in anteprima appunto di accedere a un documento riservato, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Sissi, raccontaci i timori dei paesi produttori. Buonasera, sì, il documento di cui stiamo parlando è un dossier che i paesi membri dell'OPEC si sono fatti preparare per elaborare gli aggiornamenti della loro strategia di lungo termine, un documento che fanno ogni 5 anni, ma questa volta appunto il Sole 24 Ore è riuscito a vedere anche gli studi preparatori, che forse non verranno mai resi noti nelle intenzioni dei paesi OPEC. I loro peggiori timori di lungo termine, stiamo parlando di periodo fino al 2050, sono effettivamente relativi al fatto che nel mondo gradualmente ci si rende conto della necessità di tutelare l'ambiente, di ridurre le emissioni di gas serra, e che finalmente si sta facendo sul serio anche nel risparmio energetico, nello studiare veicoli sempre più efficienti dal punto di vista dei consumi di carburanti. L'OPEC non sottovaluta affatto queste stime, servendosi di studi di consulenti internazionali specializzati, ha approfondito vari possibili scenari e in ogni caso ne esce parecchio male, anche a prescindere dalla possibilità che ci siano delle invenzioni straordinarie. Ecco, una cosa va chiarita: più che la crisi, se ho ben capito, però pesa o preoccupa i paesi dell'OPEC, ripeto, a noi ci preoccupa meno, dipendere un po' meno dal petrolio, emettere meno CO2, consumare un po' meno energia non è un male, ma dico, mi sembra che siano preoccupati i paesi produttori dal cambio di abitudini, dalla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e anche da un po' di risparmio, non tanto dalla crisi in sé per sé di questi ultimi 2 anni. No, senza dubbio loro tengono conto del fatto che questa crisi comunque ha pesato e peserà ancora a lungo sui consumi, ma la cosa che li preoccupa davvero, sembrano quasi crederci più loro di noi stessi, nella possibilità che davvero noi si riesca a diminuire i consumi di carburanti derivati dal petrolio, o che comunque il mondo trovi una qualche forma di accordo per contenere, per ridurre la crescita dei gas serra, e che quindi questo vada a pesare inevitabilmente sulle spalle di quelli che sono paesi che le cui economie sono basate a volte anche per l'80-90% del PIL sul petrolio. Questa è una preoccupazione gravissima, contro la quale hanno poche armi se non essere sempre più presenti a questi negoziati, spingere magari perché si possa fare cambio tra crediti per emissioni di CO2 e magari progetti nel sequestro di anidride carbonica, che sono progetti sì, che rendono più ecologici i campi petroliferi, diciamo. Sì, chi lo sa se hanno solo queste armi, lo dico con un po' così di cattivo pensiero, perché sappiamo che la potenza poi di chi produce petrolio e anche delle compagnie petrolifere mondiali va oltre il semplice atto formale. Comunque, interessante notare che loro sono, tu hai fatto una bellissima battuta, sono quasi più preoccupati, ci credono quasi più di noi al fatto che riusciremo a ridurre le emissioni di CO2, a consumare di meno, a trovare fonti alternative di energie alternative al petrolio e al gas. Grazie alla collega del Sole 24 Ore, Sissi Bellomo. E adesso cambiamo invece rapidamente tema, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, anzi lo facciamo dopo il traffico. Ci occuperemo della fiducia, o meglio sfiducia degli italiani verso il sistema finanziario. Annuncio subito il sondaggio, la ricerca l'ha commissionata un grosso gruppo assicurativo, AXA, e quindi non qualche gruppo no global. Quello che emerge è interessante e dovrebbe essere interessante anche per la politica. Comunque il traffico. E allora, dicevamo che è presentato nell'ambito dell'AXA Forum 2010 lo studio sulla percezione sul vissuto degli italiani quanto a crisi e fiducia, realizzato da GPF. Allora, il rapporto commissionato dal gruppo assicurativo AXA e realizzato da GPF, che è un istituto di ricerca e consulenza sui cambiamenti sociali, che è, diciamo, l'ultimo rapporto in ordine di tempo che va a fotografare e occuparsi di come si sta modificando, migliorando o peggiorando la fiducia degli italiani e anche su che cosa. È dello scorso settembre infatti il rapporto della Confesercenti, abbiamo letto anche il rapporto BNL Naudi, quello Censis, relativi però al 2009. Sul 2010, ripeto, il rapporto più recente è quello della Confesercenti, che, lo ricorderete, individuava una sfiducia delle famiglie che investiva tutti i principali attori dello scenario politico-sociale: governo, opposizione, sindacati, enti locali, banche. E faccia attenzione alla politica, quello che stiamo raccontando, se posso permettermi un consiglio, perché i temi non sono solo quelli che vediamo sui giornali, i temi delle famiglie sono altri. Ne parliamo con la presidente di GPF, Monica Fabris, buonasera. Buonasera. Allora, il rapporto è stato commissionato da un gruppo assicurativo come AXA. Prima domanda riguarda com'è cambiata la fiducia, nel senso, noi sappiamo che, insomma, nel 2010 la fiducia delle famiglie è ancora molto debole, è in calo, però vorremmo capire anche come si è modificata questa fiducia e come si è modificato anche questo calo. Noi vediamo che sta calando ormai da un decennio l'indicatore sulla fiducia nelle capacità di ripresa del paese e in generale sul futuro delle prossime generazioni. Questo calo di fiducia ha a che fare più con il contesto, e quindi ha una fiducia, diciamo, sistemica che viene a mancare. Gli italiani non si fidano delle istituzioni a cui dovrebbero far riferimento, vedono sgretolarsi degli elementi di rassicurazione anche dal punto di vista del welfare. E adesso arriviamo agli elementi di rassicurazione. Notate anche voi quanto notava la Confesercenti, cioè un calo comunque generalizzato della fiducia delle famiglie verso tutti i vari attori dello scenario politico e sociale? Sì, quello che colpisce è che invece aumenta la fiducia verso organizzazioni che hanno la caratteristica di essere organizzazioni dal basso, come quelle no profit, quelle non governative, tutte le nuove forme di associazionismo, il terzo settore, ha, diciamo, il mondo del web, attiva delle reazioni di fiducia molto forte, che però si basano su rapporti paritari, reciproci, quindi non su un affidamento totale in un'istituzione dall'alto, in cui gli italiani credono sempre meno, ma su associazioni orizzontali che vedono gli italiani stessi come protagonisti. Lei citava anche il web, ho capito bene? Sì, il web, diciamo, ha favorito in alcuni segmenti di popolazione, in particolare i giovani, e ha secondato questo fenomeno di creazione di comunità, di network, come ben sappiamo. Mm-mm. Che però poi si traducono anche proprio in associazioni culturali, sociali e anche in nuove forme di imprenditoria dal basso, a forte grado di innovazione, che può arrivare fino a forme di welfare attivo vero e proprio, cioè di soluzione dal basso di problemi che l'alto non riesce più a risolvere. E quindi la rete, come la chiama lei, orizzontale, in cui tu non sei, diciamo, subordinato, ma sei, come si direbbe in linguaggio internet, peer to peer, alla pari. Sì. Ancora, sappiamo, perché ormai è più di un anno che ce ne occupiamo, che la fiducia è calata soprattutto sulla diciamo, speranza o su quello che è la possibilità di mantenere il posto di lavoro, di trovare un lavoro migliore o di trovare un lavoro to cure se uno l'ha perso. E anche sappiamo già, ormai è un dato acquisito, che la fiducia è calata sulla possibilità di mantenere il tenore di vita. Devo dire che con la crisi che c'è stata nel 2008 e le conseguenze che ha avuto sulla finanza nel 2009, sull'occupazione nel 2010 e anche, ahimè, nel 2011, non poteva essere altrimenti. C'è qualche altro elemento di sfiducia o di minor fiducia che voi avete registrato oltre a questi due, cioè posto di lavoro e tenore di vita? Sì, c'è un nuovo indicatore che ha assunto dimensioni preoccupanti, cioè si colloca al terzo posto tra le paure degli italiani, che è quella di non riuscire più a aiutare i familiari. Cioè l'italiano medio pensa di non poter più essere parte di quella rete di welfare familiare di mutuo sostegno. Il compagno non riesce più a aiutare a colmare la disoccupazione del coniuge, o il genitore ha paura di non poter più aiutare il figlio che deve comunque aiutare data l'incertezza del mercato del lavoro, in particolare per i giovani, o c'è la badante che non può più essere pagata, sostenuta dalle pensioni e dal reddito del capofamiglia per il eventuale nonno o genitore anziano. Cioè tutte queste forme di sostegno, mutuo sostegno all'interno della famiglia, rischiano di venire meno. E questo, diciamo, è un ultimo stadio delle preoccupazioni che desta particolare allarme. Su questo notate una differenza tra uomini e donne, nel senso che di oggi il rapporto che citavamo, The World Economic Forum, in cui l'Italia continua a scendere purtroppo nella classifica mondiale delle pari opportunità tra uomini e donne. Siamo scesi dal 72esimo al 74esimo posto. Io so che queste classifiche ogni tanto vengono anche criticate, però insomma viene guidata la classifica da Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia. Nel 2007 eravamo anche messi peggio, 84esimo, ma insomma siamo superati quanto a parità nelle opportunità tra uomini e donne anche da paesi come Mozambico, Botswana, dopo di noi in compenso Malta, il Giappone, l'Arabia Saudita, insomma, su cui non avevamo dubbi, però insomma la Francia è al 46esimo posto, la Spagna all'11esimo, Germania 13esimo, Regno Unito 15. Detto questo, notate differenze nel calo di sfiducia e nelle preoccupazioni a seconda del sesso? Senz'altro, purtroppo devo rilevare che anche il nostro indicatore sulle pari opportunità, cioè di sensibilità sociale sull'urgenza del problema, sta calando. Come a dire che la crisi ha allentato un po' i progressi che erano stati fatti dal punto di vista della cultura generale, degli atteggiamenti, delle opinioni degli italiani, che sembrano diventati un po' meno sensibili a questo tema. E quindi confermo assolutamente anche dal punto di vista dei valori e degli stili di vita questo dato. Le donne sono quelle che più di tutti si occupano del destino degli altri familiari, quindi sono quelle che segnalano con più evidenza questa nuova preoccupazione. Anche forse perché sul bilancio familiare hanno anche maggiore consapevolezza. Andiamo avanti, lo scetticismo verso le istituzioni e soggetti economici. Nel rapporto che già citavo, l'ultimo, quello della Confesercenti, veniva praticamente lo giudizio sull'operato del governo come operato positivo scendeva dal 31 al 23%, meno 8%. L'opposizione, sempre giudizio sull'operato dell'opposizione, scendeva dal 21 all'11%, proprio minimi storici, ma all'ultimo posto della in classifica c'era la fiducia nelle banche, ferma, ma forse anche perché molto bassa, al 9%. Ecco, voi, visto che lo studio era commissionato da un gruppo assicurativo come AXA, avete anche chiesto, immagino, quale sia l'atteggiamento degli italiani nei confronti delle banche, delle istituzioni finanziarie, delle assicurazioni. Certo, le assicurazioni vengono un po' messe nello stesso calderone delle istituzioni finanziarie in generale, quindi giustamente c'è un tema di reputazione che diventa sempre più critico, e quindi vediamo perdere ulteriormente punti la fiducia nei confronti dell'ente assicurativo. Viceversa, però, bisogna segnalare che gli italiani mostrano sempre più interesse nell'assicurarsi, cioè sono sempre più convinti che l'assicurazione sia una tappa importante di cittadinanza, cioè come dire che fa parte di quei fenomeni di attivazione del singolo soggetto per risolvere problemi che non vengono più risolti dallo Stato, cioè c'è l'idea che le assicurazioni possano fornire un ruolo fondamentale sociale in questo momento. Mi scusi, ma come stanno assieme le due cose? Cioè il calo della fiducia e lo scetticismo che aumenta verso le istituzioni finanziarie, comprese le assicurazioni, e il ricorso, all'assicurazione come pratica? Cioè, sì, non c'è ti fidi? C'è uno strabismo d'immagine. Da una parte c'è il prodotto assicurativo che si ritiene sempre più necessario, dall'altro c'è l'ente che lo fornisce che è sempre sottoposto a uno scetticismo di base, perché come sappiamo ho visto come un po' l'incendiario della crisi degli ultimi anni, anche se le assicurazioni non sono sicuramente implicate come le banche, però dal punto di vista dell'italiano medio con poche conoscenze è molto facile fare di tutta l'erba un fascio. Quindi... Ma di chi si fidano a questo punto? Perché qualcuno glielo dovrà vendere queste polizze, questi prodotti assicurativi? Sì, si fidano sulle polizze assicurative sicuramente più delle assicurazioni. E tra l'altro emerge che insomma si fidano più del promotore, anche qui peer to peer, della persona fisica, che non dell'istituzione per cui la promuovono. Grazie per averci illustrato appunto il rapporto di GPF e Associati a Monica Fabris, commissionato all'AXA. Allora, visto che citavate Montezemolo, siamo in chiusura, non c'entrava nulla con il trasporto ferroviario delle merci, invece c'è un'agenzia di poco fa in cui Italia Futuro, la fondazione di Montezemolo, critica il ministro Tremonti, dice insomma è stato bravissimo a tenere i conti in ordine, ma adesso bisogna pensare a investimenti, non si può pensare a un paese che non investe, e casomai se ne occupi lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Cruciani. Ti occuperai anche di questo con la Zanzara fra pochi minuti? Beh, naturalmente sì, perché c'è un importante esponente di Futura Libertà, i Finiani, che propone, forse per gioco, forse no, Montezemolo come futuro leader dei centristi e di altri gruppi politici, comunque futuro leader per la candidato alla presidenza del Consiglio, e poi naturalmente tutto il teatrino della politica. E allora tra pochi minuti con la Zanzara, grazie da Sebastiano Barisoni e voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.